Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Cominciamo bene questa sera, molto molto bene, con degli erroracci tecnici. 22:07 minuti, bentrovati, buona serata. Oggi mercoledì 21 agosto 2013, bentrovati sulle frequenze di Blu Radio Veneto, il consueto appuntamento del mercoledì con Rock Wave Live, il nostro appuntamento clou, insomma, della settimana di musica dal vivo in diretta negli studi, dagli studi di Blu Radio Veneto. Questa sera con Paolo Cecchin, cantautore vicentino, precisamente di Bassano del Grappa, leggo qui. In studio con Paolo c'è Maurizio Calzavara per la consueta intervista di rito, e chi vi sta parlando invece è Sergio Bortolami alla parte tecnica. Caro Maurizio, la linea ovviamente passa a te. Caro Sergio, buonasera a tutti e buonasera ai nostri ascoltatori. Caro Paolo, bentornato. Grazie, grazie. Dopo circa un annetto, cosa dici? Sì, credo sia stato a novembre. A novembre, ottobre, sì. L'anno scorso. Sì, quindi non proprio un anno, ma quasi. Sì, sì, sì. È sempre una bella cosa un ritornare a far sentire le cose nuove, le cose vecchie, ma non importa, farti sentire. Questa è una cosa molto positiva, cosa dici? Sì, sì. È importante, secondo me, continuare a proporsi, ad essere sempre pronto a farsi sentire. Sì, esatto, insomma, perché poi un cantautore, in genere un musicista, deve essere sempre pronto a farsi sentire. Sì, poi se la passione continua, c'è una cosa solo positiva, poi avere sempre la pazienza e la costanza. Che poi in realtà, se uno ha passione, non è neanche uno sacrificio, è solo una questione di naturale che viene. Poi non è che sei tanto lontano da Padova. No, infatti ci metto mezz'oretta. Mezz'oretta. Per me, guarda, una passeggiata. Ecco, poi oggi è una giornata bellissima, non fa molto caldo, si sta bene, quindi è cosa positiva. Tanto c'era una luna immensa, in autostrada si vedeva una luna immensa, era fantastica. Sergio dice di sì, anche lui l'hai vista, luna immensa. È attraente fuori di misura la luna. La luna è bella cosa, una cosa meravigliosa la luna, e ispira anche i musicisti la luna, tanti musicisti sono stati ispirati, poeti. I gatti, esattamente. Disco nuovo che hai fatto l'anno scorso, però è un disco recente, un disco tuo, si chiama Quanto Valgo. Sì. È un Quanto Valgo, per me vale molto, ma Quanto Valgo in che senso? Allora, ha molti significati, molti chiavi di lettura questo tipo di titolo, perché è una domanda che faccio anche a me stesso, perché magari io sono molto spesso insicuro anche di me, e quindi è una domanda che mi pongo spesso, perché magari ti vengono i dubbi, soprattutto facendo anche, tentando comunque di fare anche il musicista, non sempre si riesce ad avere quel riscontro che magari uno vorrebbe. Vista anche la passione che uno ci mette, molta passione. Dobbiamo sottolineare che i musicisti che vengono qua ci mettono tutti una grande passione. Esattamente. Anche i risultati devono venire fuori. Ci sono. Arrivano, però uno si aspetta sempre qualcosa di più e si lavora per questo. Si lavora. Quindi c'è questa chiave di lettura, quindi una sorta di dubbio personale su di me stesso, per capire quanto veramente io valga. Poi anche una domanda che pongo alle persone che comprano il disco, che vedono questo disco, no? Quindi chiedo che le persone si facciano questo tipo di domanda. Quanto valgo? Ma in maniera, il giudizio deve essere dato in maniera però profonda, non quanto valgo. Quindi si deve ascoltare esteriore, bene. Si deve ascoltare dentro se stessi, deve capire quali cose sono realmente importanti, dovrebbero essere importanti in una persona, quindi l'integrità, ma piuttosto che l'onestà, eccetera. E ognuno si deve giudicare secondo questi criteri, certo, importanti. E quanto è importante è stato il rock nella formazione di Paolo Cecchini? È stato fondamentale. È stato fondamentale. Fondamentale. Direi che è stata una cosa che mi ha salvato, in realtà, perché il gruppo che più mi ha cambiato la vita, almeno agli inizi, insomma, è stato più o meno ai 13 anni, credo di aver preso, ho ricevuto in regalo l'Unplugged dei Nirvana. Ecco, cosa ti ha dato Kurt Cobain? Da giudicati dai critici di un certo livello, molto alti, uno dei migliori in assoluto Unplugged mai incisi. Perché? Che forza aveva un Kurt Cobain che ha fatto delle cose meravigliose e ha fatto un Unplugged meraviglioso? Un disco, un Unplugged per modo di dire, perché era elettrico, anche sì, se sì, era sì, acustico, sì. Era elettrico, fondamentalmente è un disco elettrico. Sì, quello vero, ha dato una forza incredibile. Una forza incredibile, un carisma, e penso anche una cosa che avevano, che aveva lui in particolare, era questa sorta di immediatezza anche nel modo di porsi. Non era assolutamente una persona artefatta, anzi non gli piaceva quel tipo di rock, il rock dei cliché, il rock che può essere magari quello spettacolare, quello del o banale, il rock del sesso, droga, rock and roll. Lui era sì, per carità, sì, poi era molto ha avuto anche quell'esperienza lì, ma non gli piaceva quel tipo di cliché del rock, sì. Un po' magari, infatti ha avuto anche questi sorta di rivalità con i Guns N' Roses, quel, certo, rock un po' più macista, un po' più glam. E quindi lui invece era un magari un po' più sensibile, un po' sulle tematiche sociali, un po' più un po' anche più come si può dire, introverso. Non era un rock and roll che diceva combattiamo il sistema, era un rock and roll che diceva io sto male qui, come so, cioè in questa, nella realtà in cui vivo, e, cioè, lo gridava al mondo. Non era sistema, quello che diceva è una giungla, come potevano dire i Guns, cioè non erano così chiari i testi, ma arrivavano in maniera molto, forse anche più profonda rispetto a dei testi magari che sono didascalici, diciamo. Questo mi colpiva moltissimo, perché magari diceva frasi insensate che però arrivano in maniera incredibile. Mi chiedevo come cavolo fa questo. Come cavolo fa. E poi ti sei imbattuto anche te, come tanti, le cosiddette tribute band, o meglio le cover band. Una volta si chiamavano cover band, adesso si chiamano tribute band. Un po' Neil Young, un po' Pink Floyd, e non era mica brutta cosa. Infatti, trovarne che fanno Neil Young. Adesso tutti fanno Vasco, fanno Liga, sì. Fanno gli U2, ma una volta fare Pink Floyd, sì, ce ne sono, però all'epoca era un po' difficilino. All'epoca si parla di 10 anni fa. Sono stato fortunato, perché all'età, penso avevo 18, 17 anni, ho conosciuto dei ragazzi che avevano 6-7 anni più di me, e avevano questo gruppo che faceva cover di Neil Young. E Neil Young dal vivo è difficile, non è mica semplice. Sì, io non so, facevi acustico ed elettrico? Facevamo entrambe le cose in realtà. Io ho cominciato a suonare lì, penso, le tastiere subito, e poi la batteria. Perché, cari ascoltatori, Paolo suona di tutto, non solo la chitarra, sì. Suona di tutto, tutto, batteria compresa. Sì, ci ho provato, sì. E lì comunque sì, facevamo sia, io non ero cantante, facevo i cori, essenzialmente suonavo batteria o tastiera, più tastiera quando facevamo i Pink Floyd, mentre batteria ho cominciato con Neil Young. E è stata una scoperta importante, perché io, figurati, a 17 anni, Neil Young sì, avevo sentito di nome, però che avessi questa, neanche i Pink Floyd in realtà sì, conoscevo i grandi classici, Another Brick in the Wall, sì, eccetera, quindi non è che avessi proprio questa grossa, neanche una grossa stima, ma perché non li conoscevo in realtà. Certo, e certo. Da lì poi invece ho cominciato ad apprezzarli in maniera estrema, entrambi le band. Poi anche Neil Young era è stato forse il precursore, se non il fondatore di una certa schiera grunge come tipo di suono, certo, come tipo di intensità, certo, e anche di sporcizia nel suono, delle suono chitarre. Elettrico, ma pesante, crazy, pesante, era un, sì, gruppo, sì, era... è ancora un gruppo di grandissimo peso. Difatti, quindi, e da lì un po' ho cominciato anche a tornare anche indietro, ad ascoltare quindi le band come i Beatles, alle origini della musica, perché sono partito da Nirvana, sono andato a ritroso. Sei ritornato indietro ai maestri, praticamente. E poi lentamente ma progressivamente sei instradato. È una brutta parola, instradato, ti sei diretto, ecco, nel cantautorato tuo personale. E sì, questa è una cosa positiva, cari ascoltatori. È bello fare le cover band o le tribute band, però è molto più bello, non si dice, ma lo diciamo lo stesso, fare le cose personali, tue. E quello è, non è mica semplice. Tutti siamo bravi, tra parentesi, è bello suonare Another Brick in the Wall o un pezzo di un Harvest di Neil Young, ma suonare una cosa di Paolo Cecchini, tua personale, che soddisfazione dà? È la soddisfazione di fare una cosa che è tua e non è di nessun altro. Poi in realtà non è una questione, è proprio una questione di principio, una cosa tua. Anche poi puoi farla magari meno bene di altre persone, magari sei anche meno bravo a farla di rispetto alle persone che fanno le cover band, magari sono più preparate musicalmente, hanno anche studiato, eccetera. Però forse secondo me hanno meno soddisfazione dal punto di vista interiore. Poi magari facendo i concerti, fai Pink Floyd, arrivano 2000 persone perché esatto. E quindi loro hanno altro il portafoglio tipo di è pieno, esatto. Però non so se il cuore è altrettanto pieno. È questo che quello sì, che dopo non so cosa è meglio visto i tempi, però però adesso a proposito di questo, sentiamo, apriamo la finestra come sempre noi usiamo fare e sentiamo il primo pezzo che hai scelto da Quanto Valgo dal disco nuovo. La traccia numero uno, perché? Sì. Perché era title track, mi pare. Era title track, ecco. È il primo singolo. Il primo singolo è stato alternativo, no, però la sentiamo. La sentiamo e poi ne parliamo, ok? Bene. Rock Wave. Rock Wave Live. Blu Radio Veneto. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. Carina. La prima traccia, Quanto Valgo. Bella, potente, carina, accattivante. Molto. E poi molto ironica. Quanto valgo io? Quanto... L'hai ripetuto più di una volta. Ma quanto valgo io praticamente? 36 euro. 36,50 cos'era? Scontato. Esattamente. È un pezzo decisamente ottimo. Io adoro i brani che pop, diciamo, pop rock, vabbè, come vogliamo catalogarla, che contengono le trombe. Fiati. Sì, benissimo. I fiati. È stata un'idea. Piace tantissimo. Qui. Benissimo, grazie. Sì, grazie. Sì. Sì, sì, ho avuto l'idea questa da quando in realtà è nata questa canzone, che è nata in maniera strana, perché io sono sì amante di Nirvana, ho detto prima, e, però in realtà questa canzone è nata su una mentre suonavo alla tastiera, e ho messo un loop praticamente di base ritmica, dance, quindi tunza, tunza, tunza. Sì. E da lì ho cominciato questo riff con la tromba, con il pianoforte, ta, ta, ta, ta, e da lì è partita la canzone. Quindi in realtà era un pezzo che partiva dance, io avevo detto, ma cos'è sta cosa? E da lì poi è partita la canzone, è stata, in realtà è venuto uno dei pezzi forti dell'album, sì, che ha dato poi anche il titolo, è nato così per caso. Dobbiamo sottolineare, per la statistica, che è entrato nel centesimo posto nella classifica di... È entrato sì nei primi 100, anche sì, e poi è arrivato al 28esimo posto, quindi è salito notevolmente, perché il videoclip girato tra l'altro da un bravissimo regista, Michele Piazza, con visual effect di Andrea Bianchin. È stato un bel video che ha girato moltissimo, e la canzone è stata apprezzata, il video altrettanto, e queste sono le soddisfazioni di cui parlavo prima, appunto, soddisfazioni assolutamente da un pezzo tuo. Sì, quello importante, come giustamente diceva Sergio, da un pezzo che odora di fiati, quindi dei blues leggermente dance, può darsi che l'idea fosse dance, ma dopo si arriva al rhythm and blues praticamente. Sì, sì, un insieme di varie di vari momenti, di vari generi, di vari momenti, insomma, come penso di essere io, sono un insieme di sfumature, ascolto un po' di tutto, cioè passato dai Nirvana, però poi per poi allargarti, mi sono allargato sempre di più. Però quindi Nirvana con Nevermind ti hanno dato l'input totale, sì, poi ti hanno aperto tutti gli orizzonti, sì, c'è poco da fare. Adesso che orizzonte apriamo noi, visto che cominciamo a suonare 22 e 24? Benissimo. Diretta, totalmente in diretta con Paolo Cecchini. Allora, io pensavo di fare un'altra canzone del disco, per partire così, rimaniamo nell'album. È una canzone scritta pensando ai difficili rapporti che ci sono tra nelle coppie in generale, quindi tra l'uomo e la sua lei, e rapporti che sono difficili, perché bisogna sempre cercare di arrivare al giusto compromesso, a limitare la propria libertà per far funzionare questo rapporto. Poi se c'è l'amore in realtà tutto risulta più semplice, però io parlo più che altro di queste complicazioni, di questa difficoltà a limitare se stessi. La canzone si intitola appunto Lei. Perfetto. Ammetto, credevo di essere la sua dolce metà, il suo chiaro di luna, la sua gioia, senza dubbio il suo re. Ammetto, pensavo fosse una buona idea seguirla e donarle ogni mia energia. Ora son vuoto e so perché. Mi prosciuga la mente e l'anima, mi percuote, mi spinge la cera, mi persuade la sciva voluta, mi prosciuga, sì, mi prosciuga lei. Scommetto, credevi che io avrei anche ucciso per lei. Ti sei sbagliato e te ne accorgerai. Sono inerme, debole. Scommetto, pensavi fosse la cura giusta per me, la medicina del mio vivere, ma resto vuoto e so perché. Mi prosciuga la mente e l'anima, mi percuote, mi spinge la cera, mi persuade la sciva voluta, mi prosciuga, sì mi prosciuga, mi prosciuga, sì mi prosciuga, mi prosciuga, sì mi prosciuga, mi prosciuga, sì mi prosciuga, mi prosciuga, sì mi prosciuga. Lei, lei, oh, lei, lei, mi prosciuga la mente e l'anima, mi prosciuga la mente e l'anima. Ok, quasi, quasi blues sto pezzo, Paolo, scheletrico, molto, molto belato di blues, ma ha una bella ironia nel testo, molto ironico, sì, sì, no, decisamente, no. Ma un'ironia fatta con una certa cura, assolutamente. Sì, sì, è una componente importante l'ironia in molti miei pezzi. In molti tuoi pezzi, è una cosa che... gli ascoltatori sicuramente hanno notato. Paolo si fa aiutare da un aggeggio, un cosiddetto loop, una specie di batteria mini, qualcosa di percussivo che dà la colorazione, dà un aiuto, un supporto, vero Paolo? Sì, sì, è fatto per riempire un po'. Per riempire, più, esattamente. Il suono in realtà mi dà un po' il ritmo per riuscire a dare un po' più di colore anche alle canzoni, che sennò in acustico non tutte possono riuscire a dare quello stesso spirito, uh-huh, che hanno nel disco. Perché questa è abbastanza energica, tra virgolette, e questo loop dà l'aiuto per quella piccola dose di energia che ci vuole. Sì, in un testo ironico, ripetiamo. Chiaramente. Sì, sì, il testo è molto ironico in realtà. In effetti, dimmi. Se uno legge così, uno può dire... testo di una persona che non sopporta più la sua lei, però in realtà è anche abbastanza scanzonato, sì. Mi immagino più una situazione magari difficile, però vista come può essere in un film che è una commedia, no? Ecco, dire, una commedia. Quindi cioè, sì, lui è disperato perché dice ma questa qui mi prosciuga tutte le forze, non riesco ad andare avanti, però... Però tenta, lancia sempre qualche sasso, sì, sì, per, sì, tentare, sì, di recepire, di riprendere quello che si sta allontanando, o viceversa. Sì, sì, sì, è così, come tutte le storie. Come tutte le storie. Sì. Però è bella, io l'ho sentita bene in questa versione, totalmente scheletrica, stasera da parte di tua, Paolo. È il discorso di fare una versione acustica, unplugged, a proposito di Nirvana, è una scelta, è una linea che si può fare, che si può portare avanti. Sì, una linea che tra l'altro sto anche cercando di proporre. Sì, adesso magari con un po' di tempo. Con un po' di tempo, sì. Adesso tra l'altro ho anche dei concerti qui a breve, domenica prossima e anche la domenica successiva. E porterò questo tipo di spettacolo. Poi ci aggiungo degli ingredienti in realtà. Certo. Perché io adesso sono venuto con Sì, adesso Paolo è venuto con cose molto essenziali. Sì, sì. Ci aggiungerò un distorsore, poi eventualmente qualche percussione. Un microfono anche per fare dei cori sempre in loop, quindi per riempire un po' più lo spettacolo, e vedo che questa potrebbe essere una soluzione anche per rendere più pratico lo spettacolo, esatto, meno, hai detto una cosa giusta, rendere più pratico, meno impegnativo, sì. E sotto certi aspetti vedo che è anche una cosa che mi fa crescere abbastanza, perché magari se essendo anche un solista, per poi avere le prove devi contattare certi musicisti, certo, chiamarli, avere il giorno libero e non riesci, non hai quella possibilità magari di provare come fa una vera band, quindi che tutti prova. I giorni, 6 ore al giorno, e quindi la confidenza, migliori il canto, migliori Invece così vedo che riesco a provare 4-5 ore al giorno col pedalino, solo riesco anche ad arrangiare abbastanza in maniera. Quindi riesci ad prepararti e ad andare ed ad allenarmi allo spettacolo e allenarti al meglio. E quando sei nello spettacolo sei al meglio praticamente. Sì, no, mi permette di crescere anche questo. Certo. Più si suona meglio. Più si suona meglio è. Questa non è solo una, è una verità, c'è poco da fare. Suonare continuamente, suonare è importante, è fondamentale per un musicista. Farsi conoscere, questo è il gioco, è tutto qua. È tutto qua. Sì. Esattamente. Come se fosse semplice, però. No, non è semplice, è difficile, lo so. Sì, però, lo so, scherzavo. Sì, no, ma è giusto che sia così. Lo ripeto sempre io, in quanto vengono le band. C'è un famoso gruppo americano che si chiama Blood, Sweat and Tears, sangue, sudore e lacrime, che è solo una traduzione. Ma sangue, sudore e lacrime vuol dire sangue, sudore e lacrime, perché per suonare bisogna sudare. Bisogna soffrire, senso positivo, chiaramente, ma bisogna soffrire, bisogna dare, perché la gente che ascolta, che ti vede e ti sente e lei è davanti a te, capisce. È così. È vero. E capisce, che la gente, che il musicista si dà tutto. E questo è vero. Tornando anche al discorso di Kurt Cobain, penso certo. Sia anche legato a quello. Si vedeva che lui non era qualcosa, una persona speciale, sensibile, eccetera, e si percepiva che quello che cantava lui lo sentiva veramente, quello che soffriva lo soffriva veramente, e per questo fosse anche stato un mito, un motivo del suo successo e della sua caduta, e della sua autodistruzione praticamente, sì, anche sì, quello. Ma tutti i grandi della musica, sì, in realtà chiaramente sono... Però è ricordato, è un nome tutelare, qualche bello ricordano tutti, anche chi non l'ha conosciuto musicalmente, però va a scovare, va a capire chi era. Sì. Ok, benissimo. Stiamo andando bene, secondo me, stiamo cercando di dialogare, di scoprire il mondo di Paolo, questo nuovo disco. Ma Paolo, ne hai fatto un disco anche precedentemente, vero? Sì. Che è qui davanti, nel mondo, eccolo. Nel mio mondo, Nel mio sì. mondo, però. Che è il disco primo di esordio. Disco. A cui sei legato, essendo l'esordio, o no? Sì, è un disco veramente a cui tengo moltissimo, perché è stato il primo passo verso... Il cantautorato, diciamo, comunque una cosa che era un sogno in realtà è diventata poi realtà, perché fare un disco in realtà ero ancora relativamente giovane, perché quindi mi sembrava mica una sei cosa, vecchio adesso chiaramente. Sì, sono maturo, era un po' se guardi me allora. saggia persona, direi. Sì. Saggio, dai, per usare. Esperto, ecco, diciamo esperto, non saggio, perché non sono Matusalemme ancora. Beh, effettivamente, grazie. Di solito ti prendo in giro per questa cosa. Ecco. E sì, è stato un passo importante. Poi, in realtà, il disco è una raccolta di canzoni che avevo scritto, scritto precedentemente. Però, sai, avere il disco tra le mani, vedere arrivare la tua prima copia è una cosa meravigliosa. È stata una bella emozione. È una cosa che rimane sempre. Che secondo me, un musicista che ha un disco in uscita, al di là che sia bello o no, non importa, ha un disco suo. È toccare con mano un suo prodotto dopo tanti anni che tenta di fare, cioè, è una cosa bellissima. Sì, una grande è una grande soddisfazione. Sì. Bene, adesso facciamo una cosa, sentiamo un altro pezzo da disco che hai scelto una serie di singoli praticamente, sì. Vero Paolo? Ho scelto i singoli del disco innanzitutto perché penso sia giusto farli sentire, quelli che sono andato, sono i singoli di cui ho anche girato il video, sono stati girati dei video. Quanto valgo abbiamo parlato di questo. Sì. Adesso questo prossimo che adesso facciamo sentire, come si intitola? Si intitola Alternativo. È l'alternativo. Che cosa ha alternativo come testo? Perché alternativo, Paolo? Alternativo vuol dire uno che fa musica non di non convenzionale. Consumo. Esattamente, Sergio. Ecco, sì, anche questa è una canzone molto molto ironica in realtà. Non è è riferito alla musica come può essere riferito ad altre qualsiasi cose. Aspetto, certo. della vita, della vita. Diciamo che è una presa in giro di quelle persone che quasi si autoghettizzano, cioè preferiscono magari tirarsi fuori dalla massa, essere nella parte, diciamo, piccola di una società, per dire, oppure degli ascoltatori di musica o di qualsiasi altra categoria,

Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Sei diverso ma non sei migliore, finiva così. La canzone, la traccia numero 2 del disco di Paolo Cecchin, il nuovo disco, la canzone si intitolava Alternativo. Un bel tiro anche questa, anzi sì. Un tiro molto, molto pesante nel senso positivo del termine. Diceva giustamente Paolo mentre il pezzo andava a Sergio, la difficoltà del respiro di fare un pezzo simile, vero Paolo? Sì, nel ritornello sono tutte parole molto vicine, frasi serrate e quindi è molto difficile, bisogna lavorare molto sulla respirazione, prendere fiato bene, anche perché è una canzone tirata dal punto di vista proprio vocale, cioè non è che è una canzone bassa. E quindi sono tante parole in tanto spazio, è dura, abbiamo dovuto lavorarci. Perché molto. L'hai, l'hai voluta così, Paolo? Perché l'avete arrangiata, te, il produttore, o i musicisti ti hanno dato una mano, l'avete arrangiata con questa tensione continua, questo correre dal punto di vista vocale? Perché abbiamo riflettuto insieme anche con i produttori, con Stefano Florio, che è il produttore. Che è produttore, anche Matteo Franzan, che ha registrato il disco. Fonico praticamente. Ci abbiamo lavorato perché la canzone all'inizio aveva un ritornello che non partiva nell'originale mio. Si fermava con Alternativo, sì, ma Alternativo a chi? Che si ripeteva, però mancava quella spinta in più data dal ritmo del cantato. E quindi ci abbiamo lavorato, abbiamo detto sì, proviamo ad aggiungerci un po' più di parole, un po' più di frasi, e quindi è nato questo testo. Poi io l'ho fatto senza rendermi conto che poi avrei dovuto sudare 7 camicie per cantarla in studio. Quindi, già, hai sudato 7 camicie per cantarla in studio, e dal vivo quante camicie sudi praticamente per cantare un pezzo così? Sì, in studio, cari ascoltatori, in studio uno mi ferma, uno ti ferma, si sistema, certe cose si sistemano, ma dal vivo è molto molto dal complesso. Dal vivo è complicato, però adesso facendolo un bel po' di volte poi cominci a capire come farla, magari non esplodi subito alla prima frase, cerchi di mantenere un po' il fiato più in maniera più razionale, di dosarlo meglio, ecco la parola giusta. Bene, è una cosa, anche il pubblico sicuramente è soddisfatto di un pezzo simile, perché dai tutte le tue capacità di respirazione, di resistenza aerobiche, tutte le mie capacità. Esatto. Prima che sia tardi, prima di ricordare tardi come al solito queste cose, possiamo ricordare eventuali concerti, il tuo sito, come contattarti, dove si trova il disco? Allora, il disco si trova su iTunes, intanto, quindi nei canali digitali. Poi allora, concerto, il primo è domenica prossima, che è il 25 mi pare. Sì, 25, esatto. E sarà in una villa a Montecchio Precalcino, Villa Cita si chiama, ed è un concerto, una festa, una cena sotto le stelle, si farà aperitivo e io suonerò e cercherò di intrattenere un po' le persone con canzoni mie, qualche cover... quindi farò assaggiare anche quello che sarà il nuovo spettacolo live così acustico da solo. La data successiva sarà invece a Bassano del Grappa, all'osteria Bassano del Grappa, ed è la domenica successiva, che è il 1 settembre, una gran festa. Ci sarà anche un altro gruppo che suonerà, che farà hard rock, mentre io farò l'introduzione come una sorta di antipasto dell'hard rock. All'hard rock invece farò in acustico, spero di riuscire a scaldare un po' le persone. Sì, ma sicuramente scalderai un po' le persone. Bene, adesso dobbiamo salutare il nostro direttore artistico Alberto Pisco, che stasera ti ha voluto, giustamente, e anche Ida dell'autoparlante, nostro gancio. Grazie ad Ida, stasera sei qua. Grazie. Ida, t'ha scovato. Sì, sì, sicuramente Paolo è disponibile. Paolo è disponibile. Sono sempre qua. Disponibile per suonare. Per suonare è una cosa bella. In radio, suonare in radio, tutti i musicisti sono venuti qua, anche chi non aveva mai suonato in radio, ha un certo fascino la radio. Sì, sì, anche qui c'è stata la prima volta con il primo disco, anche lì c'è stato è stato molto bello, molta tensione, perché poi lì, la prima volta, sai, uno pensa alla radio, invece è stato bello, mi trovo sempre molto bene, sono sempre a mio agio qui, voglio dire, quindi vi ringrazio anzi per l'ospitalità, gentilezza, così. Sì, mi piace anche per la spontaneità e tutto. Mi sento la radio noi la concepiamo in questa maniera, vero Sergio? Questo modo di far spettacoli dal vivo, i live li concepiamo così. un intrattenimento, una conversazione con il musicista per capire che musica fa, per capire il suo mondo, chiaramente, per farlo capire a chi ci ascolta. Sì, sì, ed è veramente apprezzata da me, penso anche da tutti gli artisti che vengono. Di solito è una formula sì. Veramente, veramente vincente, perché traspare, secondo me, la vera natura degli artisti e anche la natura di chi conduce. Sì, noi facciamo la radio come si faceva una volta. Sì, sì, sì. Io ho una certa età, lo ribadisco, e quando nei primi anni 70, metà degli anni 70, quindi la radio è stata fondata nel 77, si faceva radio in questa maniera. Poi, o sei. Esatto. O sei. 76, come la 76, ancora meglio, 76. Quindi si faceva radio in una certa maniera. Poi chiaramente i tempi sono cambiati, le mode e tante altre cose, però lo spirito, che è quello che conta, rimane. E live ha quello spirito. Intrattenere il musicista, parlare con lui, farsi capire e farci capire. Questo sì, è importante. Una cosa bella, secondo me, una cosa che dovrebbe essere anche mantenuta anche dai musicisti quando fanno i concerti. Ecco, questo è il mio parere. Perché secondo te i musicisti che quando arrivano in un certo periodo di notorietà dimenticano spesso in Italia di essere... di far parte, di essere venuti grazie al pubblico? Perché secondo te capita sta roba? Non lo so, penso che sia una cosa quasi automatica. Che capita quando arrivi a un certo punto, in realtà forse diventa anche più difficile controllare, magari adesso capita meno, cioè ci sono gli artisti di grande successo anche in Italia, ma sono artisti che hanno avuto successo già prima, 10 anni fa, voglio dire i Jovanotti, Ligabue, certo. I Vasco hanno solo rafforzato il discorso. Sì, sono già famosi, però sono famosi da tempo. No, penso che a un certo punto diventa entri in un meccanismo che tu controlli, sì, perché riesci a controllare qualcosina, però è un meccanismo molto più grande di te, e quindi è difficile anche prendere, diventi un'industria, quindi è difficile anche prendere, decidere, dico sì, adesso stasera vado a farmi un concertino piccolo là. No, non puoi, hai dei limiti, hai dei, certo, hai dei percorsi. Ti tocca suonare nello stadio, esatto. E dici, ma cavoli, io volevo suonare nella birreria, no, mi tocca suonare a San Siro, cosa che ti dico, chi è dura, chi non aveva queste imposizioni era un personaggio bravissimo, si chiamava Iva Graziani. Non ha mai avuto queste imposizioni, era uno spirito libero. Per quello è stato spesso e volentieri messo da parte, o meglio riscoperto dopo, purtroppo, quando lui si era un altro tipo di successo anche. Sì, esattamente. Meno frenetico. Sì. Era un grandissimo chitarrista, forse uno dei più bravi, forse il più bravo che mai ha suonato, ha calcato i palchi italiani. Però aveva questo, era suo, cioè era un carattere personale assolutamente libertario. E certe imposizioni non le sentiva. Sì, era veramente libero, ma anche le sue canzoni lo esprimono molto bene. Quindi uno degli artisti forse sottovalutati. Molto sottovalutati, nel senso poco conosciuti forse. Però ha avuto un grande impatto, secondo me, anche sui cantautori sì, successivi. Certamente. E anche su di me, in realtà. È stata una cosa strana, in realtà, perché prima di fare il disco conoscevo per nome Iva Graziani, ma non conoscevo molto. E la cosa bella è stata che ascoltandolo ho ritrovato cose che mi mettevano veramente molto in sintonia con lui. Ho detto, mio Dio, adesso Iva Graziani mi ha anticipato molte cose che avrei voluto dire io. E che magari ho detto in certe canzoni, no? Quindi mi hai detto anche prima tu che è alternativo in alcuni passaggi veloci. Ricorda molto Iva Graziani. Il modo di cantare che lui aveva, velocissimo, molto proprio di tensione, di pathos. E quindi sono anche in debito anche con lui. E perché hai scelto Pigro da far sentire in questo momento, 22:51? Perché Pigro è un testo, è un pezzo veloce, di tanta grinta. Perché Pigro? Per quello, perché è un pezzo veloce e perché è un testo che mi piace. Significativo, molto significativo. Molto significativo, ironico, molto pungente. Molto pungente, che entra immediatamente. Sì, bellissimo. Non fa tanti giri, entra immediatamente. Quello che deve dire. Spontaneità. Esattamente. Mi piace. E che dici, lo faccio? Certamente. Benissimo. sai citare i classici a memoria, ma non distingui il ramo da una foglia, il ramo da una foglia pigro. Una mente fertile, dici è alla base, ma la tua scienza ha creato l'ignoranza, ha creato l'ignoranza, pigro. E poi le parolacce che ti lasci scappare, che servono a condire il tuo discorso d'autore, come bava di lumaca stanno lì a dimostrare che è vero, non si può migliorare. Tu schifo d'educazione, con tu schifo d'educazione, pigro. La capra per il latte, la donna per le voglie, ma non ti accorgi della noia che ha tua moglie, della noia che ha tua moglie, pigro. Castighi i figli in maniera esemplare, poi dici siamo liberi, nessuno deve giudicare, nessuno deve giudicare, pigro. E poi le parolacce che ti lasci scappare, che servono a condire il tuo discorso d'autore, come bava di lumaca stanno lì a dimostrare che è vero, non si può migliorare. Con tuo schifo d'educazione, con tuo schifo d'educazione, pigro. Eccezionale, da tanto, grazie. Non ho sentito da tanto pigro di Ivan Graziani, è un piacere insomma risentirla. Bravo Paolo, veramente, pezzo chiaramente non semplice da fare, però hai eseguito bene. Grazie. Perché è forse nel tuo DNA questo pezzo qua, secondo sì, me. Sì, sì. Sei molto legato a questo pezzo, a questo testo, a questo modo di suonarlo, di interpretarlo, di viverlo, perché Iva lo viveva assolutamente. No, veramente, come dicevo prima, questa canzone mi piacerebbe averla scritta, è bellissima, proprio mi trovo benissimo a cantarla e dice cose che secondo me sono bellissime nella loro schiettezza, sì. No? Sono anche dure. Sono dure, assolutamente dure, senza tanti giri di parole. Però arriva subito e mi piace tantissimo. Dobbiamo ricordare che Ivan Graziani è famoso per Agnese, tanti pezzi malinconici, romantici, pop di alta classe, però è anche famoso certe ballate che ti fanno il famoso pelo. Per il suo sarcasmo, esatto, anche, ma esatto. Era taglientissimo, sì, molto tagliente. Sì, sì, è un grande musicista, un grande chitarrista, come giustamente Paolo prima parlava, ha detto. Molti chitarristi italiani hanno seguito il modo di suonare che aveva lui, che era molto particolare, molto particolare, sì, decisamente sì, sì. Particolare. Il suo concerto era uno spettacolo, un avvenimento, era veramente trascinava. Era bello da vedere, cioè strano, però molto bello, ho visto qualche video, perché non ho avuto la fortuna di poterlo vedere, ma dal vivo intendo, però ho visto molti video e devo dire che aveva questa sorta di carisma incredibile, non è che facesse cose magari esorbitanti in molte canzoni, perché non è che magari facesse capriole, cose stranissime, però era veramente diretto, arrivava subito e col suo modo di fare, il suo modo di vestirsi, quegli occhiali, esatto, strani, con gli occhiali, bastava quello ed era già a posto, comunicava già tutto quello che voleva, insomma. Benissimo, adesso visto che sono le 22:58, comunichiamo una cosa, non so se ti ricordi, caro Paolo, a una certa ora, in un certo momento del programma, sì, ci sono delle scelte da fare. Fai una sigletta, puzza. Lo squalo. Bene, adesso la scelta. Cosa dobbiamo fare? Te lo dice lo speaker ufficiale della radio. Quindi Sergio, cosa dobbiamo fare? Se non ricordi, ci sono 5. Sì, facciamo come 5. Come 5? Facciamo 6? Stiamo esagerando adesso. 5 dai, 5 dischi da portare in un'isola deserta. No compilation, no copie perché vabbè sei da solo. Vabbè. Vabbè. Abbiamo tempo per quello, sì. Paolo. Ok. Quello che vuoi. Ci devo fare, devo rispondere subito. Adesso a bruciapelo. Allora, vediamo un attimo. Direi forse. Beh, allora diciamo In Utero dei Nirvana. Ecco, hai scelto Kurt Cobain, chiaramente, sì, In Utero. Quello non, perché hai scelto non quel, quell'album là, non Nevermind, che tutti scelgono Nevermind? Perché è l'ultimo di studio, penso sia quello che il suo, forse il vero testamento musicale che ha lasciato Kurt Cobain, è stato quello. Forse, non so se sia l'album migliore, però probabilmente è, il, è quello che musicalmente voleva, e sento in sottofondo anche. Eh sì sì, Sergio gli ha pescati, gli ha pescati. E, era, un suono, era un po' la, la risposta un po', diciamo, che ha dato Kurt Cobain dopo il successo di Nevermind. Sì, il successo non voleva planetario, questo successo planetario. Ed è tornato indietro con questo suono, questi suoni molto grezzi, sì, molto difficili. La prima volta che ho ascoltato il disco ho detto ma dov'è? Cosa ha fatto? Dov'è il Nevermind? Si sentiva tanto bene. Qua ci sono fischi, sì. Qua ci sono... Poi in realtà dopo due o tre ascolti dice sì, questo era quello che voleva, musicalmente voleva esprimere questo. Poi David Grohl è andato a fare altre cose apprezzabili, per carità, ma ben diverse. Ma Foo Fighters sono molto bravi, sono molto sì, bravi, sì, che, sì, che mi piace, voglio dire. Vado avanti con le, certo, la lista. Quando, non ci, non sei, cinque, cinque, cinque. Okay, grazie, perché sennò me ne vado. Allora direi Harvest di Neil Young. Ecco, dai. Tu hai parlato di Neil Young. Harvest è il disco di grande successo, disco acustico. Sì, sì. Visto che tu all'epoca facevi Neil Young, qualche accordino te lo ricordi ancora? Allora, vediamo. Così, en passant. Sai che adesso non mi ricordo se era in Harvest, però. Mi pare, va bene lo stesso. Però è una delle canzoni più una canzone più famose. Heart of Gold. I wanna live, live. I wanna give. I've been a miner for a heart of gold. Non so il testo. Beh, abbiamo capito. Quello, comunque, quello, sì. È un tuo amore, Neil Young, acustico, Harvest. Pink Floyd anche, dai, mettiamo. No, Beatles. Ah, prima i Beatles. Cosa dei Beatles? Metterei il White Album, guarda tu. Ecco, tu hai scelto uno dei dischi più sicuramente più importanti. Qualcuno dice più importante è Sgt. Pepper. Un disco fondamentale, perché è il disco dove c'è di tutto. È quello che mi piace di quel disco. White Album, c'è di tutto. C'è perfino un pezzo di Ringo, canta un pezzo Ringo. Quindi, no. Sì, sì, sì. C'è di tutto. E quindi quello. No, per questo è senza, cioè, forse il più bello è Sgt. Pepper, o comunque anche Abbey Road. Anche Revolver. Sono album in sé proprio completi, cioè sono un quadro unico, diciamo. Mentre è veramente un pupurrì di canzoni. White Album c'è White di Album tutto. C'è la canzone più bella, forse, di George Harrison. Sì. While My Guitar Gently Weeps. Esatto, Weeps. Esattamente. C'è Blackbird di Paul McCartney, quel gioiellino acustico di qualche, sì, minuto. C'è Helter Skelter di John Lennon. E poi c'è anche il John Lennon, diciamo, un po' più avanti e artistoide, che faceva, sì, Revolution Number 9. Sì, anche quello. Number 9. È una cosa, sei molto avanti. Cioè, una parte è la mente di John Lennon, una parte è la mente di Paul McCartney. Hanno concesso a George Harrison un capolavoro, quel pezzo meraviglioso che lui, sì, ha fatto. Sì, sì. Perché solo dopo molti anni hanno concesso a George Harrison di fare qualcosa. Prima, sì, facevano tutto loro e basta. Poco, qualche canzone. Qualche piccola canzone. Non riusciva. E sì, che era il più dotato musicalmente, George Harrison. Dal punto di vista musicale, era il più bravo. Però i due erano loro due che. Ma come si conducevano, sì, il discorso, sì, sì. Benissimo, e poi? Allora, diciamo Pink Floyd, di Graziani niente? Di Graziani non so, non credo, non direi. Non direi. Niente di Graziani. Di italiano, vediamo, sto pensando di italiano. Qualche, canto, qualche musicista italiano, cantautore, musicista in genere. Vediamo di italiano cosa potrei portare. In realtà italiano ascolto relativamente poco. Mm. E quindi non saprei l'italiano effettivamente. Cosa porteresti su un'isola deserta? Non so, un cantautore, un gruppo? Qualcuno spesso e volentieri, Sergio può confermare, spesso e volentieri si fermano a, a Fabrizio De André. Ma quello sì, quello sicuramente è uno degli autori, che dei canti, dei grandissimi, che conosco in realtà non così bene. Lo conosco perché ho ascoltato molte cose, però non saprei dirti un album anziché l'altro. Lo conosco anche per vie traverse, perché La Domenica delle Salme. Ecco, mi piace tantissimo. Oh, così. Bello, bello. Grazie. Mamma mia. E, no, dicevo che il mio produttore è anche un amante di quel tipo di musica, un po' folk, cantautorale, quindi mi ha dato anche questi input. Però non saprei dirti un album. Un album qualsiasi di De André, potrei dirti. Un album qualsiasi. Perché comunque il testo di De André è sempre una cosa che arriva, cioè una cosa di una poesia. Che è un di poeta. Assolutamente un poeta, chiaramente. Penso sia livello assoluto. Ah, cioè, certo, non ci sono altri. Se quando uno viene citato nei libri di scuola, vuol dire che è a livello assoluto. Cioè è arrivato a un punto in cui bisogna citarlo nei libri di scuola, vuol dire che è arrivato, quindi un poeta in ogni caso. Poi un altro disco che mi ha fatto molto, che in realtà poi ho avuto un amore improvviso, però l'ho lasciato un po' da parte. Poi hai ripreso? Il Tommy di The Who. Ah, bene, parliamo di Tommy degli Who. Tommy, lei disco. Te lo ricordi nella versione del film o nella versione all'inizio della, cioè il disco originale? No, il disco, il film non l'ho mica visto. Non l'hai visto? Non l'ho visto. Non l'hai visto? Ho avuto degli dei clip, ho visto del film. Non l'hai visto? Cioè la versione, l'opera rock di Tom. L'opera rock è un disco meraviglioso. Meraviglioso. Pinball Wizard. See me, feel me, touch me. Come si fa a non dimenticare un pezzo simile? Non, è una meraviglia. Sì, Pete Townshend è un artista, è un grande scrittore di musica. Sì. Forse anche loro, forse un po' poi, sottovalutati in realtà. Perché no, non beh, so, ma è grande successo, grande presenza scenica del cantante, chiaramente. Sì, Daltrey. Daltrey è un grande presenza. Io l'ho visto un anno e mezzo fa a Padova, quando è venuto da solo, chiaramente non con gli U. Aveva però, mi pare, il figlio di Pete Townshend nella formazione. E ha presentato parte di Tommy, quasi tutto Tommy, e quando ha fatto un pezzo da Who Next, Baba O'Reilly, tutti ci siamo alzati in piedi. Gran pezzo. Quello è un pezzo grandioso, un pezzo di una forza incredibile, un fascino incredibile. Sì, poi lui ha una voce, nonostante abbia più di 60 anni, aveva ancora una voce, una grande voce. Cioè, gli U erano Pete Townshend, ma erano anche lui. Era la voce, sì, oltre a un bassista straordinario, è un batterista fuori di testa, sì, ma straordinario anche sì, lui. Sì, sì, sì. È una band incredibile. Bene, sono contento che tu abbia citato Tommy di Liu. Sì, grande album. Ne manca qualcuno? Sì. Non so, cosa perché abbiamo, ho detto De André generico, non so se vale come risposta. Se vuoi peschiamone un altro. Dai, ma facciamo un altro, dai. Lo so che ti stiamo tirando. Allora, dopo andiamo con qualcosa dal disco magari. Certo, certo. Così si riposa. Giustamente. Allora, direi forse Animals. Animals. Comunque uno dei primi dischi dei Pink. Ma quelli non primi so con se Syd Barrett? Sono incerto se prendere quelli di con Syd Barrett. Saxophone Secret. Saxophone Secret, uno dei primi. Primo, sì. Direi di andare su quello. Sì, quindi Syd Barrett, sei un barrettiano te? Sì, diciamo che sì. Sì, mi piacciono i primi. Poi anche i primi dopo Barrett, poi più avanti comincia è un po' di diventare un po' troppo, non so, mi piaceva fino a Live at Pompeii, voglio dire, quando facevano Echoes, quel tipo di canzoni lì, molto psicadeliche da 20 minuti, però mi piaceva quel tipo di atmosfera. Poi non lo so, forse ha preso più il sopravvento Waters. Secondo me aveva già il sopravvento, però all'inizio. Però forse si riusciva un po' a mediare. Poi è diventato. Per The Wall è scritto tutto a lui. Sì, sì. Final Cut grandissimo, The Wall disco, è incredibile. Però tra i due forse preferisco la pazzia di Barrett. Sei barrettiano, è positivo. Abbiamo finito questa carrellata. Direi di sì. Direi di sì. Sentiamo un pezzo da disco, cosa dici? Sergio? La traccia numero 3 che si intitola Dentro me, appunto Paolo Cecchin, dal disco suo ultimo, Quanto valgo. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Allora, 23:12 minuti, Blu Radio Veneto, la voce di Sergio nella parte tecnica appunto della trasmissione e Maurizio dall'altra parte del vetro insieme a Paolo Cecchin questa sera insieme a noi per presentare il suo ultimo disco dal titolo Quanto valgo? Allora, questo pezzo che abbiamo sentito era una ballata importante dedicata a tuo papà. E agli archi possiamo dire, Paolo, possiamo citare i musicisti che ti hanno dato una mano in questo disco, perché gli archi sono veri qua. Gli archi qui sono veri, sono suonati da Michele Sguotti, che ha suonato viola e violino, e anche in altri pezzi. Poi, come abbiamo detto prima, ci sono le trombe e il sax soprano, anche in quanto valgo, suonati da Beppe Corazza. E la chitarra le ho fatte io, Stefano Flori, il basso è di Matteo Franzan, che è uno dei produttori che ha registrato anche il disco, vediamo se dimentico qualcuno, Lorenzo Sabadini alle percussioni, Giulio Filotto ha fatto la programmazione, ha lavorato ai synth, e Giulio Faedo alla batteria. Bene, quindi una bella squadra per un disco fatto bene, eseguito bene, curato, possiamo dire questo. Sì, abbiamo lavorato molto, siamo stati molto dietro ed è venuto un bel risultato. Sì, dire, sì, sicuramente un bel risultato, un ottimo risultato. E l'etichetta è un'autoproduzione, no? È prodotto dal tuo produttore esecutivo artistico, che è Stefano Florio. Florio. Sì, è un'etichetta, diciamo, mia, che è data in collaborazione con Ronny Bellotto, che mi supporta in questo mio progetto di cantautore. Più c'è l'etichetta Bass Department, Buena Onda, che sono dei due produttori. Quindi diciamo che questa squadra ha fatto incidere questo album. E tu dicevi che adesso vuoi fare questo progetto di musica acustica, con qualche piccolo aiuto, con le macchine, con i loop, eccetera, per fare un discorso forse di ampliamento, per cercare di trovare altri stimoli, può darsi anche questo, musicali. Sì, come dicevo prima, è una questione di... E anche di opportunità. Molto di opportunità e anche di comodità. Anche però, di location, visto che sei in questi location, posti particolari. Sì, puoi suonare ovunque, vuol dire, questa è la cosa bella. Ma poi ho visto che anche provando si può riuscire ad ottenere anche un suono, anche una canzone, si può rendere anche una canzone aggressiva, certo. Riuscire in una maniera che uno non penserebbe in acustico, no? Però se riesci magari a registrarti un ritmo abbastanza incalzante, basta metterci un po' di una piccola distorsione, cantare in maniera aggressiva, riesci ad avere comunque un risultato, un bell'impatto che magari non è lo stesso ovviamente di una band rock. Chiaro. Però se uno vuole far trasparire anche la sua indole rock, che non tu ha ce la l'hai, possibilità della band, che tu ce l'hai, perché sei nato, come abbiamo detto all'inizio di trasmissione, musicista rock. Poi sei diventato cantautore, però il rock non si può scordare, e un primo amore non si scorda mai, come si dice. Infatti. Viene rimango, sempre fuori. Rimango sempre un po' così marcio dentro. No. No, nel senso che mi piace, sì, quel tipo, certo, di rock lì, dei Nirvana, dei belli grattati, dei Neil Young, quello bello grattato, anche Syd Barrett, grattava bene all'inizio di carriera. Io ricordo sempre il primo singolo di Pink Floyd, che si chiamava See Emily Play, che l'aveva scritto proprio Syd Barrett, che era un piccolo gioiellino psichedelico, ma un gioiellino meraviglioso. Syd Barrett aveva queste idee strepitose, e che purtroppo non era poi fu sostenuto dalla testa, la testa se n'è andata dall'altra parte, ed è successo quello che è successo. Però dobbiamo sempre ricordare che se i Pink Floyd sono nati per idea di questo stranissimo personaggio che amava l'arte, che era un disegnatore, era un pittore, che ha creato questa grandissima band che si ricorderà sempre come i Beatles, quindi un marchio di fabbrica. Sì, veramente, grandissimo merito. Bene, cosa ci fai sentire adesso, caro Paolo? Non so se è canzone a richiesta. Canzone a richiesta. Avevi accennato una canzone. Sì, prima di cominciare il concerto, avevamo parlato con Paolo di Gigi Kale, che se n'è andato da qualche settimana. Gigi Kale è un personaggio conosciuto grazie ad Eric Clapton, che l'ha rilanciato grazie a Cocaine, un pezzo famosissimo che molti forse non lo sanno, l'aveva scritto Gigi Kale. Sì. Adesso Paolo vuole omaggiare un piccolo omaggio a Gigi Kale e a questo meraviglioso pezzo Cocaine. Thank you. if you wanna take down, down to the ground, cocaine. She don't lie, she don't lie, she don't lie, cocaine. If you got bad news, you gonna kick them blues, cocaine. If you take her down, down to the ground, cocaine. She don't lie, she don't lie, she don't lie, cocaine. Cocaine, riprodotta, riproposta anzi dal nostro ospite Paolo Cecchin. Caro Maurizio, ecco, Cocaine è un grandissimo pezzo che abbiamo già ripetuto, ma è stato lanciato, è stato Gigi Kelly, un autore bravissimo, però volutamente un po' a parte. Era un personaggio che non voleva la notorietà, era un po' distante. Eric Clapton l'ha rilanciato alla grande, meritava assolutamente, e ha avuto un ritorno grazie a Eric Clapton per un po' di tempo. Poi è ritornato da una parte, era un personaggio così. E questo è un pezzo molto bello, si vede che lo ami questo pezzo, si vede come l'hai fatto, molto scheletrico, con chitarra e voce, con una certa intonazione, perché volevi dare un certo come si dice, pathos al pezzo. È un pezzo che mi piace particolarmente, sì. Mi piace anche proprio la melodia, mi piace anche questo tipo di chitarra, anche l'assolo che c'è nella canzone. Come mai hai deciso di suonare questo pezzo? Per caso o perché era nel tuo DNA, lo conoscevi già da tempo? No, penso di averlo avuto già nel DNA, l'ho sentito magari all'inizio un po' di sfuggita, magari mi è passato, però poi subito dopo l'ho ritrovato, mi è rivenuto in mente, ho detto proviamo. Questo pezzo qui è veramente, veramente bellissimo. Poi lo sentivo proprio, mi piaceva proprio la versione di J.J. Cale, perché si ascolta proprio anche quella versione, certo. Mi piaceva moltissimo proprio l'originale. E quel tipo di rock molto, molto, che sembra magari abbastanza semplice dal punto di vista, ma non è proprio compositivo così. E magari uno che magari non sa l'inglese dice ma è una canzone abbastanza semplice, però in realtà c'è una grossa profondità dietro. E poi questo qui, chiaramente il testo qui si capisce abbastanza di cosa parla, certo. È un testo abbastanza controverso, eccetera, però e questo anche mi piaceva, tra l'altro, la spontaneità, il dire le cose come stanno. Sì, sì. E Paolo Cecchi, quando si presenta al pubblico, hai già in mente una scaletta da fare o la scegli al momento, alla location? Per esempio, fra qualche giorno suonerai in questo posto, hai già scelto la scaletta da fare? Più o meno sì, più o meno sì. Devo ancora metterla a posto, ci sono però delle l'idea piccole, è già quella. Sì, ci sono già delle idee più o meno. Diciamo che c'è una sorta di dinamica già decisa. Poi le canzoni si può sceglierne una anziché un'altra in scaletta, però ritmicamente cerco di avere Mario un inizio un po' forte, poi si da un certo periodo di pausa, un po' più lento, e poi ritornare su, sì, diciamo che queste sono le dinamiche. Poi si può sempre improvvisare, voglio dire, quando si è anche così c'è anche la libertà di dire, se vedi che la serata tiene va bene, gli faccio cocaine, anche se cocaine in realtà non so, non penso sia in scaletta dei miei concerti, però può darsi che la faccia adesso, visto che l'ho fatta anche stasera, potrei anche farla anche ai concerti. E quindi poi diciamo che c'è sempre uno scheletro di scaletta lì, si provano le canzoni e poi certo, nei due album che hai fatto ci sono degli scheletri, cioè dei pezzi che hai lasciato volutamente nel cassetto che per un motivo diverso non sono entrati a far parte di due dischi? Ce ne sono perché li hai lasciati nel cassetto? Perché con il produttore avete deciso no, questo non andava bene, o perché per Paolo Cecchini il pezzo non era valido? Per l'uno e l'altro motivo, sono stati entrambi i motivi, cioè alcuni effettivamente io mi rendevo conto che erano canzoni che non c'entravano, no, magari erano belle però non c'entrava niente con l'album che comunque stava venendo fuori in una determinata maniera, altre canzoni magari non piacevano, magari non erano finite, non erano complete, ci sarebbe stato a lavorare di più e quindi sono state scartate, oppure semplicemente c'era già l'album quasi completo e mancavano determinati tipi di canzoni, quindi non serviva magari più la canzone rock, che magari ne avevo altre due o tre di lato, però non servivano più, c'erano già prima Quanto Valgo, c'era anche Alternativo, quindi non serviva quel tipo di pezzo. Capito. E quindi veniva escluso perché Per Quanto Valgo hai dovuto scrivere un pezzo, dei pezzi ex novo per Quanto Valgo, oppure no? Cioè la scritta era già predisposta, però c'era un pezzo che tu avevi pronto, come hai detto prima, però non ci stava, hai dovuto rifarlo, riprendere uno di ex novo, gli hai messo per finire la scaletta. È capitato con Quanto Valgo, con questo album. No, Quanto Valgo è nata quando è nata praticamente l'idea dell'album, quelle prime canzoni. Ma è capitato subito con questo disco è capitato, cioè c'erano già le 20 canzoni, però magari 9 andavano bene, erano già scelte, però tra le altre 11 non c'erano le due che sarebbero servite per completare questo puzzle dell'album. Ho capito. Magari mancava la ballatina, allora lì ti metti a lavorare, scrivi. Qui vale il musicista, l'autore. Quindi. Scrivi ex novo un pezzo o due, tre pezzi. Ma come lo scrive un pezzo Paolo Cecchini? Ci sono molti modi, alcune volte dipende da cosa arriva l'esperienza. Prima ti ho detto dalla tastiera, mi sono messo semplicemente suonando, molte volte ti viene l'ispirazione, altre volte invece puoi prendere spunto da dei particolari musicali di altre canzoni. Che non è detto, non è che dici prendo il giro di accordi, una determinata sonorità, esatto, dici, no, che non ti è colpisce, dici ok, tipo il suono di chitarra di cocaine, potresti, magari dici vabbè, faccio questo tipo di ritmica, provo a vedere un attimo se riesco a trovare la stessa sensazione, ecco, che crea una canzone, che non è copiare, cari ascoltatori. Per esempio, Alternativo, ti posso dire che la sensazione che doveva essere era più o meno simile, doveva essere simile al il ritornello doveva essere ricreare la stessa sensazione che dà di Pretender, dei Foo Fighters, più capito. O meno quel tipo di, quindi Nirvana Doce rock and roll tirato rock and roll tirato, e quella è stata una sorta di ispirazione che ha dato per il ritornello di quella canzone. Altre volte semplicemente scrivi un testo, testi capitano con molte frasi, magari scritte in momenti diversi, che in realtà dicono le stesse cose, hanno lo stesso argomento o hanno un filo conduttore, che diventano poi un testo, e da lì magari nasce la canzone, ti metti i due accordi e parti dal testo e cerchi di rendere al meglio quello che è. Certo. Non so, cosa abbiamo in scaletta, Sergio, adesso ancora da disco? La traccia numero 11, che è l'ultima disco, Lettera al Mondo. Adesso la sentiamo, poi ne parliamo assieme, ok Paolo? La sentiamo subito. Certo. Arrivederci caro mondo in fiamme, Ci rivedremo quando sarai grande, quando il respiro fresco del mattino sarà migliore. Mi sono nascosto in grotte di cemento solo per scriverti quello che sento, gridarti tutto il mio dolore, farti cambiare. Purtroppo risposte io non ne ho, troppe domande io ti scriverò, ti lascerò. Quanti futuri uccisi con violenza, quanti problemi fuori da questa stanza, quando la vita di ogni uomo riavrà colore. Quante bugie dovrò sopportare, quante foglie stanno per cadere, quando la cenere che vedo a terra donerà vita. Purtroppo risposte io non ne ho, troppe domande io ti scriverò. Ancora una volta tu risponderai, io sarò sempre qui, ti aspetterò. Potrei sembrarti forse indifferente, ma sai che tu per me sei importante. Sono distante perché ho paura, sono un vile. Chi sono io per dirti di cambiare? Ammetto, sono il primo a sbagliare. Vorrei solo il caldo abbraccio del tuo mare. Purtroppo risposte io non ne ho, troppe domande io ti scriverò. Ancora una volta tu risponderai, io sarò sempre qui e aspetterò. Io sarò sempre qui e aspetterò. Ti scrivo arrivederci in un addio. Blu Radio Veneto. Rock Wave, l'onda del rock. Allora, questa era l'ultima traccia del nuovo disco di Paolo Cecchin, la traccia numero 11 si intitola Lettera al Mondo. Maurizio. Un pezzo volutamente messo come ultimo per finire il disco, volutamente, come diceva Paolo mentre il pezzo andava, con gli archi, vero Paolo? Assolutamente, sì. Un'idea tua e di Stefano, il tuo produttore. Sì, è stata un'idea mia e di Stefano Florio. Provavamo a scrivere un pezzo che un po' più cantautorale ed emozionale, sì, con diciamo, molto pathos, sì, che facesse un po' anche risaltare magari l'emotività e il timbro di voce, dove io parlassi un po' di un argomento che mi poteva stare a cuore. Cioè, l'idea era nata così, insomma, scrivi, cioè doveva essere libero nella scrittura. Abbiamo lavorato insieme alla melodia, che è in gran parte sua. E poi mi ha detto di lavorare, io mi sono messo a lavorare su questo testo, che ogni volta che lo rileggo vedo che comunque è attuale, anche se adesso è passato un po' di tempo. Allora l'avevo scritto, la prima frase, arrivederci caro mondo in fiamme, l'avevo scritto un paio di anni fa ormai, quando c'era stata, penso sia stata la rivolta in Siria, credo, un paio di anni fa. Adesso cambiato il posto, è Egitto, però, sì, diciamo no, che la situazione delle fiamme rimane ancora purtroppo rimane attuale. Questo io speravo non succedesse, speravo fosse una cosa antica, però queste situazioni di contrasto rimangono sempre, le fiamme rimangono ancora, ed è una canzone che nella quale io ammetto essenzialmente le mie colpe, cioè, cosa vuol di, dire? Di persona, sì, sì, appunto, di persona magari che cerca, si isola, o che magari pensa, no, in realtà pensa di non avere, di non poter far nulla per queste cose, ma in realtà è forse più una scusa per non impegnarsi seriamente a cambiare le cose, no? E anch'io dico, sono nascosto in grotte di cemento per scrivere quello che sento, però potrei sembrarti indifferente, ma sai che sei importante, sono distante perché ho paura di fallire intanto nel cambiare il mondo, ma anche ho paura forse proprio della situazione, della vita, paura di vivere. Quindi in realtà non è che una lettera di biasimo al mondo, come dire, mondo non mi piaci così come sei, dico non mi piace, ma è anche colpa mia che non riesco a darmi da fare, non riesco a cambiare le cose. Ho capito. Questo è il testo e musica, ha deciso Stefano con te di metterci gli archi, sì, suonati, assolutamente suonati. Da Michele Sbotti, che è un bel finale con gli archi. Finire un disco con gli archi dà una certa sensazione di malinconia, di trasporto, un po' molto inglese come finale, anche se non può essere, però gli inglesi amano particolarmente qualche volta metterci gli archi. Poi qualcuno può dire, è anche un pezzo sanremese, può darsi che lo sia. Ma sono tante chiavi di lettura per un pezzo. Sì, sì, ha varie componenti. Ha varie componenti. Sicuramente alla fine, non appena abbiamo scritto il pezzo, ho pensato, questo deve essere il pezzo di chiusura. Anche perché visto il testo la frase finale, ti scrivo, certo, a vederci non addio. Poi se posso dire anche una chicca per magari i musicisti o gli esperti. In realtà il finale... con cui ho anche avuto delle discussioni creative. Con Stefano Florio. Il pezzo è tutto, parlo proprio per i musicisti, in tutto in minore. In realtà. Cosa vuol dire il pezzo è tutto in minore? In soldoni. In tonalità minore, quindi una tonalità più triste. Più malinconica. Invece il maggiore è... Meno malinconica. E tutto il pezzo in minore, tranne il finale, che è l'unica cosa in realtà che ho scritto io, che è una conseguenza di accordi, che finisce in maggiore, perché ho detto... La canzone che deve avere un po' di speranza alla fine, quindi diamoci il maggiore, tanto per darti, sì, per dare la costruzione anche di un pezzo, perché praticamente il 99% tranne gli ultimi tre accordi e quel finale perché questo è molto bello, perché la gente può capire, me compreso, che sono qua stasera al microfono con Paolo, che costruire un pezzo, anche costruire le chiavi musicali di un pezzo, non è mica una cosa semplice, è una cosa molto complicata, perché l'idea, basta cambiare da un mi minore a una tonalità maggiore, già cambia, sì, la colorazione del pezzo stesso. Cambia tutto, è una cosa che ho imparato anche un po' alla volta, cioè mi ha insegnato molto, molto Stefano da questo punto di vista, lui che ha molta esperienza, però capita, le volte mi dice, perché fai questo accordo così di chitarra? Prova a farlo nell'altra maniera, che magari cambi un dito e senti, e ti cambia tutta la canzone, cioè cosa che impari facendolo. Sì, cioè, ci vuole tempo per imparare. L'aiuto di I maestri sono importanti per questo. Sì, sì, questo insegnano chiaramente. Sì. Bene, adesso a proposito di maestri, adesso suoniamo qualcosa d'altro, che Paolo ha ancora dei pezzi da farvi ascoltare fino alla mezzanotte. Che pezzo adesso facciamo sentire, Paolo, dal vivo? Allora, io direi di fare un singolo che è uscito da poco, che è una cover che ho registrato anche in studio, in diretta, e una canzone celeberrima, penso sia una delle canzoni più toccanti. Perché hai scelto questa celeberrima? Non serve chiamare, chiaramente dire il titolo, perché già basta gli accordi, uno capisce subito. Però se uno vuole dire il titolo, poi Paolo, da buono speaker, perché lo dirò dopo. Lo dirai dopo, esattamente. Perché hai scelto questo pezzo così famoso, così bello, così toccante, così importante? Per i motivi che hai appena detto, che è così bello. Ecco, per... No, diciamo, è un pezzo difficilissimo in realtà, perché sì, cioè, anche se l'hanno fatto in 10 milioni di persone. Sì, certo. Difficilissimo perché era di un musicista difficilissimo a priori. Sì, perché Leonard Cohen era difficile. Poi, inavvicinabile, inarrivabile. Sì, poi c'è stata l'interpretazione forse più toccante, che è stata quella di Jeff Buckley, che quella penso sia una delle interpretazioni e anche il successo della canzone è stato grazie a Jeff Buckley, no? Esattamente. Però è una canzone che emozionalmente dà delle cose che non si riescono a spiegare. Sono quelle cose, quelle canzoni che ti arrivano anche se non sai bene cos'ha, non sai perché la melodia è così. Musicalmente è difficile suonare un pezzo simile. Una mia curiosità, o sono gli accordi semplici? Gli accordi in realtà non sono difficili. È una canzone una canzone relativamente semplice, perché è abbastanza ciclica. Io la faccio arpeggiata, ma si può fare in vari modi. La cosa difficile di questa canzone è l'interpretazione. Difficile, ognuno può interpretare, però riuscire ad arrivare a metterci il giusto spirito, il giusto pathos, ed era quella la sfida che hai fatto. Hai tentato di fare. Ci sono riuscito, però mi serve per maturare ulteriormente. Certo. Cercare di capire. Sentiamo allora l'Alleluia cantata da Paolo Cecchi. Heard there was a secret code that David played, and it pleased the law. But you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor falls, and the major lift. The baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Your faith was strong, but you need a proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Now, baby, I've been here before. I know this room and I walk this floor. I used to live alone before I knew you. See your flag on the marble arch. Love is now a victory march. It's a cold and it's a broken. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Bravo Paolo, come sempre il fascino di una canzone simile non ha confini, è sempre da un certo peso, un certo non so che, una certa immagine. Beh, pezzo meraviglioso, tu sei stato bravo perché l'hai cantata con il cuore. Sì, è la cosa importante, la cosa difficile. È cosa difficile, è ma è cantata da Paolo Cecchini, non da Jeff Buckley o da Leonard Cohen o qualche altro. È cantata da Paolo Cecchini, e quello è importante, secondo me. Sì, l'importante è farla propria. Riuscire ad esprimere quello che la canzone ti dà, quello che la musica ti dà. E questo penso sia uno dei pezzi che più riesce ad emozionarmi. E non è neanche così, quando hai queste canzoni, secondo me non è neanche così difficile riuscire ad entrare in simbiosi completa con il pezzo. Poi in realtà che la tua interpretazione sia arrivi perfettamente alle persone oppure no, ci sono, magari non è detto che l'interpretazione arrivi, però riuscire ad entrare con questi pezzi così emozionanti, almeno per me, Non è così difficile. Ma sicuramente giunge assolutamente alle persone che ti seguono. Poi, visto che è un pezzo nuovo che hai inciso da poco, quando lo proporrai al pubblico, sicuramente l'hai proposto a noi. Noi siamo il tuo pubblico in questo momento, oltre grazie. A quelli che ti sentono via radio. Noi ci ha emozionato, questo bene. Sicuramente. Adesso sono le 23:44. Caro Sergio, abbiamo deciso di far sentire uno che ha emozionato, di cui abbiamo citato precedentemente la carriera, Iva Graziani, la traccia dal disco. L'hai già trovata? Beh, sarà pigro. Esatto, sarà proprio pigro. Perché l'abbiamo sentita prima nella versione che ne ha dato, bellissima, di Paolo. Adesso la sentiamo nella versione da disco che Paolo ha fatto. E arrangiamento da disco, chiaramente. Qui ci sono i musicisti che hai citato. La batteria, sì. Dove la suoni nella traccia del disco? Qual è il penultimo pezzo? Il penultimo pezzo, esattamente. Sì. Suona anche la batteria. Si è limitato solo in questo pezzo nel disco, però. Sì, vero Paolo? Non ho voluto fare altro. Non ho voluto strafare nel senso, sì, positivo, no, del termine. Lascio spazio. Sentiamo pigro nella versione di Paolo Cecchini. Eccola qua. A memoria, ma non distingui il ramo da una foglia, il ramo da una foglia, pigro. Una mente fertile, dici è alla base, ma la tua scienza ha creato l'ignoranza, ha creato l'ignoranza, pigro. Lasci scappare che servono a condire il tuo discorso d'autore. Come bava di lumaca stanno lì a dimostrare che è vero, non si può migliorare. Col tuo schifo di educazione, col tuo schifo d'educazione, pigro. La capra per il latte, la vanna per le voglie, ma non ti accorgi della noia che ha tua moglie, della noia che ha tua moglie, pigro. Tu castighi i figli in maniera esemplare, poi dici siamo liberi, nessuno deve giudicare, nessuno deve giudicare, pigro. Ti lasci scappare che servono a condire il tuo discorso d'autore. Come bava di lumaca stanno lì a dimostrare che è vero non si può migliorare. Col tuo schifo di educazione, col tuo schifo di educazione, pigro. E questa era Pigro di Ivan Graziani nella versione di Paolo Cecchin, che poi è la traccia numero 7 del suo ultimo disco dal titolo Quanto Valgo. Siamo in un finale quasi jazzistico, volutamente jazzistico, per dare uno, una colorazione diversa a un pezzo come Pigro, che fondamentalmente è un pezzo molto sostenuto. Tu l'hai dato, hai dato la tua versione sostenuta, sia pure ironizzando, non ironizzando dal punto di vista del testo, ironizzando con la musica, dando sì, una colorazione un po' così. Sì, penso sia anche una delle mie caratteristiche dal punto di vista proprio di cantato. In sottofondo c'è. Senti, sì, sento. Il saggio da pescare. Sì, è una tua caratteristica, anche ironizzare coi colori musicali. Sì, è una cosa che penso di avere anche. Mi piace l'ironia, mi piace anche prendermi, gioco anche nel cantato, se riesco in qualche canzone. Ed è per questo che Pigro è stata scelta. O anche alternativo, sono canzoni che mi piacciono, perché riesco a giocare molto con l'interpretazione in maniera ironica, no? Senza essere proprio il cantante serioso che canta la canzone, il cantante insomma d'opera, no? Sì, esattamente, proprio cantautore quello. Cantautore italiano, no, giochiamoci, divertiamoci, insomma, almeno non dico in tutti i pezzi, però in qualche canzone in cui si può essere liberi. Allora adesso, a proposito di giocare, c'è uno che un po' di anni fa ha giocato con Milano e Vincenzo. Questo abbiamo scelto, adesso penso che interpreterà Paolo, dal suo primo disco. Milano e Vincenzo è una cover di un pezzo famoso di Alberto Fortis. Il discorso di giocare Milano e Vincenzo forse è stato scritto per un certo Vincenzo Micocci, che era il creatore della Hit, il creatore del Folk Studio, e a quanto sembra, sì, è una leggenda metropolitana forse, non so se sia vero effettivamente, aveva rifiutato una certa canzone di Alberto Fortis. Lui, come poteva, ha scritto sto pezzo che per molti anni fosse stata un'inventiva contro Vincenzo Micocci. Poi Alberto Fortis, bella faccia dell'inventiva, esatto, ma lui Vincenzo dopo, io ti ammazzerò, esatto, sei troppo stupido ma per lui vivere. Ha detto dopo molti anni che non era proprio così, però è stato creato questo gioco. È un bel pezzo, è un pezzo anche non semplice anche questo. Tu hai scelto di fare questo pezzo, questa sbaglio? O A voi romani aveva lo stesso anche significato. Anche A voi romani per molti anni non ho potuto più entrare in certi locali. Non è una a Roma. Canzone leghista, è una canzone all'epoca insomma che... Sì, ma non era contro i romani. No, infatti. Però molti romani hanno capito. Si sono un po' arrabbiati, forse anche un po' giustamente, perché insomma, A voi romani è tutto quel che dice. Allora, questa versione di Paolo, di un pezzo di Alberto Fortis, ce la fai in questo momento, è una tua colorazione di un altro pezzo di una certa inventiva, sì, molto ironico. Milano Vincenzo. Milano, sono tutto tu. Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sii buona almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Oh Milano, tu non trattarmi mai così. Vincenzo, io ti ammazzerò. Sei troppo stupido per vivere. Oh Vincenzo, io ti ammazzerò. Perché? Perché non sai decidere. Mi piacciono i tuoi quadri grigi, le luci gialle, i tuoi cortei. Oh Milano, sono contento che ci sei. Vincenzo dice che sei fredda, frenetica e senza pietà. Ma è cretino e poi vive a Roma, che ne sa. Vincenzo, io ti sparerò. Sei troppo ladro per capire che il tuo lavoro amici non troverai mai. Perché non sai soffrire. Ti devo tanto come uomo. Lavoro insieme ai figli tuoi. Oh Milano, fa di me quello che vuoi. Ti lascio tutti i miei progetti, le mie vendette, la mia età. Oh, non tradirmi, sono vecchio, il tempo va. No, no, no, no. Vincenzo, io ti inseguirò. Sei troppo stupido per vivere. Oh Vincenzo, io ti ammazzerò. Perché? Perché non sai decidere. Vincenzo, io ti prenderò. Sei troppo stupido per vivere. Oh Vincenzo, io ti ammazzerò. Perché sei troppo ladro per amare. Vincenzo, io ti inseguirò. Sei troppo stupido per vivere. Oh, oh Vincenzo, io ti prenderò. Sei troppo stupido per vivere. Vincenzo, io ti inseguirò. Sei troppo stupido per vivere. Oh, Vincenzo, io ti prenderò. Sei troppo stupido per vivere. Oh. Bravo Paolo, altra canzone difficile perché, come tu ben sai, tutti i nostri ascoltatori sanno, Alberto Fortis era famoso anche per i falsetti e non è mica una cosa semplice. E poi quando ricordiamo tutti la meravigliosa Una sedia di lilla, che è una cosa incredibile per quanto riguarda i falsetti. E già, hai fatto una bella cosa, riprendere Milano e Vincenzo, l'hai ripresa, l'hai interpretata a tua maniera, una cosa molto positiva bene, secondo bene. Te. Abbiamo quasi finito Paolo, sono le 23.55, quindi abbiamo fatto due ore piacevoli, abbiamo parlato della tua musica, dei tuoi progetti. A proposito di progetti, ricordiamo le tue date, che allora, qualche giorno. Domenica prossima, quindi 25 agosto, sarò a Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza, alla Villa Cita, ed è una festa, e vi siete tutti invitati, comincerò a suonare credo dalle 8, poi la festa in realtà comincerà prima con aperitivi e cose, però dalle 8 in poi sarà un bello spettacolo di musica live. La domenica successiva invece sarò all'Osteria Bassano del Grappa, un'altra bella festa, ci sarà anche un altro gruppo, ci sarà un buffet. Metal, detto? Gruppo metal? Hard rock, forse anche un po' metal. Beh, insomma, ci sarà però un gruppo... fanno anche un po' le Zeppelin, quindi no, hard rock, un po' di diciamo, tutto. Sì. Ma soprattutto ci sarò io, è quello importante. E quindi invito tutti, lì sarà anche lì una bella festa, ci sarà da divertirci, ci sarà tanta gente, sarà disponibile il mio disco, dove, se uno vuole, si potrà su iTunes oppure mi può contattare eventualmente su Facebook o sul mio sito www.paolocecchin.it, basta mi scriva, gli farò avere in maniera rapida il disco fisico, se non vuole avere proprio il disco digitale che è un po' magari freddo, però se vuole le copie ne ho ancora. Bene, disponibili. Caro Sergio. Caro Maurizio, stavo scegliendo un pezzo per il dopo. Ah, scusami, ma ho capito. Abbiamo terminato questa bella chiacchierata con Paolo. Domani ci sarà Agostino, ore 21, con me chiaramente. E ci sarà una musicista d'origine di Pavia, anche se lei è nata a Rimini, abita a Pavia e fa musica jazzata, musica jazz. Paolo, con cosa terminiamo? Con un inedito, una canzone nuova, mi avevi detto. Sì, vorrei cantare una canzone nuova che non ho ancora in realtà registrato, è ancora una bozza, però sicuramente sarà una canzone che farò prossimamente in studio. E, una canzone molto che sento molto, che nel momento in cui l'ho scritta l'ho sentita moltissimo, soprattutto come testo, e si intitola Sono qui. Bene, grazie a Paolo, grazie a Sergio, ci sentiamo domani ore 21. Alla prossima. Notti insonni a consumarmi e perdermi. Solo ancora a contemplare il traffico. Porta chiusa si può forzare, credimi. Dell'estate rimane solo un alito che sembra sussurrarmi: dove sei? Una voce che risuona per un attimo. Ma se cercassi non ti troverei. Pensarci bene, sai, la vita è semplice. Il problema è che penso troppo a te. Un angolo di cielo troppo azzurro. Per chi vede solo grigio come me. Ma sono giro per prenderti. Dio è lo spazio vuoto che c'è fra noi. Riempiamolo e leghiamoci con un elastico. Se scappassi più forte ti riavrei.